Va ora in onda Non Solo Turismo, da Trieste in giù tra itinerari, eventi e gastronomia. A tutti i radioascoltatori e i teleascoltatori, perché sapete che CRM, oltre ad essere una radio che si sente, si vede. E quindi buongiorno e benvenuti nuovamente in questa settimana di trasmissione dedicata al turismo e non solo, agli appuntamenti gastronomici, agli eventi in giro per l'Italia e per il mondo. In queste ultime settimane abbiamo parlato di tradizioni, origini di tutte le feste e abbiamo abbandonato un po' quella che è invece la nostra trasmissione regolare, che era quella di parlare del Parco delle Madonie, di tutti i paesini che compongono il Parco delle Madonie e dintorni. E quindi questa settimana concludiamo le feste, queste lunghe feste natalizie, e non potevamo non parlare che dell'ultima festa che chiude il Natale, cioè dell'Epifania. Chiaramente ci scusiamo per i 10 minuti di ritardo, perché come ben sapete io avendo un'attività di viaggi a volte arrivo un po' più tardi del solito e finiremo dopo l'una, quindi seguiteci per tutta quest'ora di appuntamenti ed eventi dedicati all'Epifania, perché oggi parleremo proprio delle origini, delle tradizioni legate all'Epifania e dulcis in fundo, come sempre, parleremo di gastronomia. E allora iniziamo subito con l'Epifania, con le origini, le tradizioni, anche per sapere perché festeggiamo l'Epifania. E possiamo già iniziare a dire che l'Epifania ha origini sicuramente, cioè chi crede appunto a queste origini pagane, ma ci sono anche delle origini cristiane rispetto a quella che ormai è diventata una festa commerciale come tutte le altre. Cominciamo a dire che quando già a Roma la nascita di Cristo si celebrava il 25 dicembre, due settimane fa, abbiamo parlato del Natale, abbiamo appreso che per svariato tempo e per svariati motivi il Natale non cadeva il 25 dicembre ma in altre date, che poi decisero di farlo cadere appunto il 25 dicembre. Quindi quando si stabilì a Roma che la nascita di Cristo si celebrava il 25 dicembre, nella Chiesa d'Oriente si continuò per molto tempo a celebrarla invece il 6 gennaio, e questo allo scopo di sostituire una precedente festa pagana dedicata alla nascita di un dio che poi era identificato con il dio Sole e consacrata con la benedizione delle acque. Dato che non si conosceva la data del Redentore fino ad allora, era stata scelta quella del suo battesimo nel Giordano, che essendo la prima manifestazione, ecco da dove viene il nome, dal greco, manifestazione in greco, significa epifania, per cui l'epifania viene da questa prima manifestazione, cioè il battesimo di Gesù Cristo nel Giordano, diede il nome quindi a questa festa. Possiamo sostenere che anche l'Epifania è una festa di inizio anno collegata al Natale. Poi, visto che nell'ambito della religione mitriaca il 6 gennaio si festeggia la venuta dei Magi, sacerdoti persiani, la Chiesa di Roma ha concluso il ciclo natalizio dedicando quel giorno all'adorazione dei Re Magi. Tra l'altro ne parleremo più avanti nella nostra trasmissione di oggi. Nell'ambito della religiosità popolare, l'Epifania rievoca la venuta infatti dei Magi, specialmente nell'Italia settentrionale, con un particolare concentramento appunto di festività legata ai Magi proprio nelle Tre Venezie. Nella settimana antecedente, solitamente di sera, una comitiva gira per le case del paese preceduta da una persona che regge una pertica su cui è appesa una stella di carta che contiene dentro un lumicino. Tutta la compagnia canta in coro: dall'Oriente siamo partiti con la guida di una stella. Un altro gruppo viene formato da bambini che, inginocchiandosi davanti alle porte delle case, iniziano appunto questa litania sui Re Magi e sull'adorazione di Gesù Bambino, e continua poi con un riferimento al presepe. Cosa c'entra anche il presepe? Ne abbiamo parlato in queste settimane. Abbiamo parlato appunto dell'inizio del presepe, delle origini, delle tradizioni. Parleremo ancora di presepi alla fine della nostra trasmissione radiofonica. Perché a Cefalù, visto che parleremo alla fine di Cefalù e dei suoi eventi legati al Natale, ci dedicheremo appunto agli ultimi eventi e uno dei tanti, quelli che è riuscito forse meglio di tutti, insieme ad alcuni che poi nomineremo anche alla fine della trasmissione, è stato proprio questo, questa mostra di presepi in giro per la città. Diciamo anche, vi dicevo appunto che sì, l'Epifania è anche una festa pagana, e parliamo anche delle origini pagane, perché nella tradizione popolare il termine Epifania, storpiato poi in Befana, perché poi fu a svariati anni dopo che l'Epifania venne chiamata Befana, ha assunto un significato diverso, andando a designare la figura poi della vecchietta che conosciamo tutti, che distribuisce i doni. Come abbiamo avuto modo di parlare fino adesso di alcune tradizioni italiane, ma ne parleremo anche tra un po' di tutto quelli che sono gli eventi dedicati all'Epifania in giro per l'Italia, non solo, molte nostre festività hanno un'origine rurale, cioè affondano le radici nel nostro passato agricolo, e così è anche per la Befana. Anticamente, infatti, la dodicesima notte dopo il Natale, cioè dopo il solstizio invernale, si celebrava la morte e la rinascita della natura attraverso la figura pagana di Madre Natura. La notte del 6 gennaio, infatti, Madre Natura, stanca per aver donato tutte le sue energie durante tutto l'anno, appariva sotto forma di una vecchia e benevole strega che volava per i cieli con una scopa, che ormai chiaramente, visto che era finito, stava iniziando il solstizio d'inverno, chiaramente questa scopa appariva secca e senza, ormai senza vita. Madre Natura era pronta per essere bruciata come un ramo per far sì poi che potesse rinascere dalle ceneri come una nuova una luna nuova e come una nuova natura. Prima di morire però la vecchina passava a distribuire doni e dolci, e tutti in modo appunto da piantare poi questi semi che sarebbero nati durante l'anno successivo. Ecco da dove ha origine la Befana, e quindi l'Epifania, questa figura di questa vecchina che distribuisce i dolci dal punto di vista pagano, quindi dal punto di vista agricolo, perché molte delle nostre feste hanno origini appunto nell'agricoltura. In molte regioni italiane in questo periodo si eseguono diversi riti purificatori simili a quelli del carnevale, in cui si scaccia il maligno dai campi grazie a pentoloni che fanno un gran chiasso, oppure si accendono fuochi, o addirittura in alcune regioni si costruiscono dei fantocci di paglia a forma di vecchia, che vengono poi bruciati tra il 5 e il 6 gennaio. La Befana coincide quindi in molte tradizioni con la rappresentazione femminile dell'anno vecchio, pronta a sacrificarsi per far rinascere quest'anno nuovo e rigoglioso. Questa festa ha assunto nel tempo, come ben sappiamo, un significato lievemente diverso. Nella cultura italiana attualmente la Befana non è tanto vista come un simbolo di un periodo di tempo ormai scaduto, quanto piuttosto come una specie di nonna buona che premia o punisce i bambini, dipende da come si sono comportati durante l'anno. I bambini buoni ricevono ottimi dolcetti, qualche regalino, quelli che attivi solo il temutissimo carbone, che nell'ultimo periodo, come ben sappiamo, si è trasformato in un dolcetto, perché il carbone esiste sotto forma adesso di dolce, per cui i bambini vengono puniti simbolicamente, ma non ricevono proprio queste punizioni, così come facevamo noi quando eravamo piccoli. E allora, prima di passare alla leggenda della Befana, proprio in senso lato, e prima di passare alle tradizioni dell'Epifania in Italia e nel mondo, io vi prego di non andare via, perché adesso è il momento della pubblicità e della nostra musica, anche perché voi sapete bene che una radio senza pubblicità non può sicuramente andare avanti, per cui la pubblicità, che è l'anima del commercio, è anche l'anima nostra, insomma, per poter andare avanti, e ringraziamo per questo sempre CRM, chi sta al di là di questo vetro, quindi alla regia. Oggi infatti c'è Santi Genovese, che saluto affettuosamente. Vi lascio per un paio di minuti con la nostra pubblicità e qualche canzone, forse probabilmente legata al Natale. Sì, forse sì. Nel frattempo non andate via, perché poi parleremo dei vari eventi che si svolgono in Italia e nel mondo. A dopo. Vorrei essere libero, libero come un uomo, libero come un uomo.

creandone proprio un personaggio, lo stesso stregua di Babbo Natale più o meno. La Befana è una specie di strega o di fata, quindi benefica, talvolta malefica, e i bambini ricevono appunto doni, dipende da come si sono comportati durante l'anno. Sempre per quanto riguarda i riti di inizio di un ciclo annuale, troviamo i prodigi e i presagi, perché poco fa abbiamo parlato del fatto che la Befana, dal punto di vista pagano, ha avuto origine proprio con questo rinnovo di anno agricolo, proprio per un rinnovo dell'agricoltura. E quindi, come c'erano i presagi, c'erano anche i prodigi dati da questa vecchina che passava attraverso i campi. In Romagna una leggenda dice che alla notte dell'Epifania le mura diventino di ricotta, per esempio. Nelle Marche, nell'Abruzzo e in altre regioni si dice che le bestie acquistino la favella, quindi inizino a parlare, ma chi osasse ascoltarli e riferire morirebbe il giorno stesso. A Palermo invece si racconta appunto che i re magi attraversassero l'isola e facessero fiorire per incanto tutti gli aranceti. In Calabria le ragazze, prima di addormentarsi la vigilia, recitano una canzoncina augurale. Se sognano una chiesa parata a festa o un giardino fiorito, sarà per loro un anno fortunato. Quindi, come vedete, anche molte leggende che dietro questa Befana, dietro questa Epifania. Nel Friuli addirittura si solennizza con fuochi nelle campagne. Ricordiamoci che i fuochi sono dei fuochi propiziatori, li abbiamo visti anche in occasione del Capodanno la scorsa settimana. È uso anche correre per i campi lungo i filari delle viti con fasci di canne accese, gridando pane e vin, la grazia che Dio glorardin, che significa godremo. L'Epifania segna anche l'inizio del carnevale. Tant'è che in Sicilia c'è il proverbio per i tre re tutti olè, e a Roma in piazza Navona la Befana presenta la più le più caratteristiche espressioni del folklore anche a sfondo carnevalesco. C'è una Befana, una indiavolata che va in giro per le piazze, soprattutto a piazza Navona in mezzo ai passanti. Poi abbiamo il famoso presepe, presso cui si fermavano in permanenza i biferari, cioè coloro i quali avevano delle bancarelle di donne e giocattolo. Ecco, da qui le origini anche del presepe legato all'Epifania e ai re magi. E poi i re magi, di cui parleremo più avanti. Abbiamo avuto modo appunto di parlare di queste leggende, ma non abbiamo avuto modo di parlare proprio della leggenda legata proprio a questa vecchina. Saluto Angelo Arduino, che ha sostituito Santi Genovese. Buongiorno dalla regia, il caro Angelo che ci segue un po' dovunque, non soltanto qui a CRM, a casa sua, chiaramente nella trasmissione condotta da me, ma soprattutto in giro per queste feste natalizie. Si è molto prestato e lo ringrazio. Grazie per questo. E noi continuiamo invece a parlare della leggenda legata proprio alla Befana, perché non tutti noi credo sappiamo di queste leggende, delle origini di tutte queste feste. Usiamo appunto festeggiare il Natale, il Capodanno, l'Epifania, l'Immacolata, ma a volte non abbiamo neanche idea da dove derivino queste feste. Ecco perché voglio puntare l'attenzione su questa Epifania, anche per darvi contezza di quello che sono le origini delle feste che noi ci appropinquiamo proprio in questi giorni a festeggiare. Ed ecco perché da dove viene la leggenda della Befana. Secondo il racconto popolare, i re magi, ecco che tornano ancora i re magi, diretti a Betlemme per portare i doni a Gesù Bambino, non riuscendo a trovare la strada, chiesero informazione ad una vecchietta. Malgrado le loro insistenze affinché li seguisse per far visita al piccolo, la donna non uscì di casa per accompagnarli. In seguito però si pentì di non essere andata con loro e, dopo aver preparato un cesto di dolci, uscì di casa e si mise a cercarli, senza nessun risultato. Così si fermò di casa in casa, tutte le case che trovava chiaramente lungo il cammino, donando dolciumi ai bambini che incontrava, nella speranza che uno di questi fosse proprio il piccolo Gesù. Da allora girerebbe per il mondo facendo regali a tutti i bambini per farsi perdonare appunto da questa mancanza di non aver seguito i re magi. Ed ecco appunto le origini di questa Befana e soprattutto il suo legame con i re magi che vedremo dopo. La Befana, tradizione tipicamente italiana, ricordiamoci che, che è stata esportata dall'Italia questa tradizione della Befana, non è stata ancora soppiantata da una figura straniera, così come è successo per Babbo Natale, che ha avuto origine in Lapponia e poi si è divulgato in giro per il mondo, come abbiamo visto 2 settimane fa, fino a giungere anche a noi. Invece la Befana è proprio una nostra tradizione. Rappresentava anche l'occasione, ricordiamoci, per integrare il magro bilancio familiare di molti che, indossati i panni della vecchia nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, passavano di casa in casa ricevendo doni, per lo più in natura, in cambio di un augurio, di un sorriso. Quindi ricevevano del grano, ricevevano della pasta, ricevevano della frutta, per cui per molti di questi... personaggi, di queste persone che appunto vestivano i panni della vecchia, della Befana, per loro era assolutamente la notte tra il 5 e il 6 un'occasione per poter avere economicamente qualcosa in più a casa. Oggi se si indossano gli abiti della Befana lo si fa per impossessarsi proprio di questo ruolo che è quello di una vecchietta che è dispensatrice di regali e di piccole ramanzine per i bambini che si comportano male, dando loro appunto questo carbone. Di Eremaggio vi ho detto ne parleremo dopo, invece adesso ci soffermiamo, come sapete io lo faccio sempre, a parlare, e questo è tipico del mio lavoro, perché come ben sapete facendo l'agente di viaggio porto in giro molta gente, ma ascolto anche da chi è andato in viaggio, non necessariamente con la mia agenzia, i racconti degli eventi che si vedono in giro, ai quali tutti i clienti e non assistono, proprio per prendere anche degli spunti per dei nuovi eventi da fare anche nel nostro territorio. E quindi ecco che facciamo adesso da Trieste in giù, e non solo, perché oggi ci occuperemo anche di alcuni eventi fuori dall'Italia, per capire cosa si svolge e cosa succede in questa settimana dedicata all'Epifania per chi dovesse partire in questi giorni o si trovasse in giro. Per esempio c'è una lunga notte dell'Epifania in Friuli, si chiama la cerimonia della messa dello Spadone, si festeggia a Cividale, esattamente in Friuli, e sono degli antichissimi fuochi propiziatori che illuminano la notte tra il 5 e il 6 gennaio, li ritroviamo anche in altri posti, ma in particolare in Friuli Venezia Giulia si festeggia l'Epifania con cerimonie e tradizioni che affondano le radici in riti celtici addirittura. E in tutte le località, grandi e piccole della regione, al calare della dodicesima notte, quella dell'Epifania appunto, la dodicesima notte subito dopo il Natale, come vi ho detto poco fa, l'ultima del periodo natalizio, e si organizzano altissimi falò propiziatori chiamati pignarli o foghere, si bruciano fetici, si fanno previsioni sull'andamento dell'anno che sta per iniziare, traendo gli auspici dell'andamento proprio dal fumo e dalle faville. A Cividale del Friuli, una città che si trova lungo il fiume Natisone all'imbocco delle anonime valli, il 6 gennaio si svolge appunto questa messa dello Spadone, che rievoca l'evento storico dell'investitura imperiale che ricevette nel Medioevo il patriarca Marcado von Randeck, feudatario del Friuli. Che cosa succede? Nel Duomo, in un contesto di grande solennità, si celebra in latino una messa, la messa dello Spadone, durante il quale il diacono si presenta proprio con l'elmo piumato in testa, la spada sguainata nella mano destra e nella sinistra un antichissimo e preziosissimo evangelario. La spada è ancora quella originale appartenuta al patriarca, pensato un po', che fece il suo ingresso in città nel lontano 1366. L'evento che si ricorda appunto nel giorno dell'Epifania è un evento particolare, e che invitiamo appunto coloro i quali si trovano in Friuli o dovessero partire per le prossime loro vacanze di questo fine settimana di andare proprio a Cividale, perché c'è una festa molto particolare. E invece Io ne ho raccolto altre in giro per l'Italia. A Urbani, ad esempio, 15 km da Urbino, si celebra l'Epifania con sfilate, eventi a tema e si conclude con il Befana Night, quindi una sorta di notte dedicata alla Befana dove tutti in piazza cominciano a ballare e scatenarsi, molto caratteristico. A Roma tra il 5 e il 6 la Befana, come ho detto poco fa, è una forse delle rappresentazioni più caratteristiche di questa vecchina, appare tra la folla a Piazza Navona, regalando dolciumi a tutti. Ho assistito a una delle epifanie romane e devo dire che è molto divertente e molto sentita, perché proprio la Piazza Navona si riempie di bancarelle con dolciumi, eccetera. Saluto e sto salutando, non sono matta, una delle mie ospiti, che è Rosa Maria Messina, che tra un po' ci parlerà appunto di gastronomia, che sta per entrare, eccola. Se sentirete abbaiare è il mio cagnetto che dà il benvenuto a Rosa Maria. E quindi a Roma, dicevo, questa Befana va in giro per Piazza Navona a regalare questi dolciumi. A Napoli invece si festeggia nella città della scienza, dove grandi e piccoli possono cimentarsi in attività varie e stanno a contatto con la Befana. Quindi è la Befana che dà loro delle indicazioni su come attraverso dei laboratori costruire dei piccoli giochi. A Venezia, questa è anche bellissima, Venezia è una delle mie città preferite, una delle città più belle secondo me del mondo, oltre al carnevale è bellissimo andare a Venezia anche per l'Epifania, perché c'è una regata storica in costume, circa 50 uomini, quindi non donne, non la classica vecchina, ma 50 uomini si vestono da Befana e si sfidano in una gara in gondola nel Canal Grande, quindi una cosa spettacolare. E poi invece lasciamo un attimo l'Italia e ci concentriamo un po' invece verso l'estero, verso queste particolari tradizioni, e parliamo per esempio del Perù, dove c'è una processione molto caratteristica, bellissima, in maschere chiaramente che sono delle maschere tipiche peruviane, e c'è questa processione, quindi anche in Perù si festeggia l'Epifania. A Bratislava c'è una processione religiosa che permette di rivivere la visita dei Re Magi, ne parleremo infatti più tardi di questo. E poi c'è ancora Malaga, dove i Re Magi sfilano accompagnati da 12 carrozze e 5 bande. A Verna invece, in Bulgaria, c'è una processione religiosa, questa è spettacolare perché non penso che potrei mai farla, perché è una particolare processione religiosa, dove tutti indistintamente coloro i quali partecipano a questa processione si buttano nelle acque del Mar Nero, che sono ghiacciatissime, ecco perché si mantengono sempre in Bulgaria e Romania belli pimpanti e sempre giovani. E poi in Etiopia addirittura, io non pensavo che l'Etiopia si festeggiasse l'Epifania, c'è una processione ortodossa che si chiama Tumkat, è una famosissima e particolarissima, oltre che coloratissima, quindi questoissima, dovunque, processione molto particolare. E poi ancora, per esempio, in Russia la Chiesa ortodossa celebra il Natale il 6 gennaio, quindi non il 25. Secondo la leggenda, i regali vengono portati da Padre Gelo, accompagnato da Baba Kiska, una simpatica vecchietta. E poi ancora in Francia, nel giorno dell'Epifania, si usa fare un dolce speciale all'interno del quale si nasconde una fava. Chi trova la fava durante quel giorno sarà il re o la regina per tutta la settimana. Quindi, ecco che, siccome Rosa Maria fa dei dolci, questo potrebbe essere un'altra tradizione da prendere, mettiamo dentro qualcosa e chi la trova potrebbe essere il protagonista di un mese a Cefalù o di una settimana. E l'ultimo, in Spagna, il 6 gennaio, tutti i bambini spagnoli si svegliano presto, corrono a vedere i regali che non la Befana ma i Re Magi hanno lasciato. Il giorno precedente mettono davanti alla porta non la classica calza della Befana che mettiamo noi, ma un bicchiere d'acqua per i cammelli assetati e anche qualcosa da mangiare e una scarpa. Quindi non la calza ma la scarpa. Quindi una volta che i Re Magi trovano il bicchiere d'acqua e possono dissetare i cammelli, lasciano dentro la scarpa questi regali. Per cui anche per oggi vi ho fatto un excursus di quelle che sono le nostre tradizioni Italiane e non solo, le tradizioni in giro per il mondo, perché mi piacerebbe molto che, ecco, che Angelo Arduino ci sta mandando una foto della classica Befana. La cosa divertente è che se vi trovate in giro in uno di questi paesi che vi ho appena segnalato, andate a festeggiare l'Epifania attraverso queste, partecipando a queste manifestazioni, a questi eventi spettacolari. Se invece siete in procinto di programmare questo weekend, venite o da me in agenzia o in altre agenzie a Cefalù, la mia si trova in via Spinuzza, chiaramente venite che vi preparerò un piccolo viaggio, un weekend in una di queste cittadine italiane o all'estero per divertirvi insieme alla Befana, alle vecchiette o ai re maggi, in base a come si festeggia l'Epifania. Noi vi lasciamo adesso per un paio di minuti con la nostra pubblicità, perché la pubblicità, dicevo, è l'anima del commercio. Mi dice Angelo, questo è il bello della diretta, che non è il momento della pubblicità, ma devo prima darvi invece, vi lanciamo proprio via radio una bella canzone di Natale e poi la pubblicità, perché noi con la pubblicità possiamo mandare avanti le nostre attività in radio e quindi, anzi, questo è un invito sotto l'Epifania a chiunque ci ascolti, siccome CRM si sente, si vede, è una radio seguitissima, fate pubblicità su CRM, così noi possiamo riempire il palinsesto di CRM di tanti tanti tanti tanti eventi e trasmissioni. Adesso noi vi lasciamo con la nostra bella musica e con la pubblicità, non andate via perché poi parliamo degli eventi che si svolgeranno a Cefalù in questa settimana. A dopo. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I am dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Days be merry and bright, and may all your Christmases be solo turismo, da Trieste in giù tra itinerari, eventi e gastronomia. Ed eccoci qua di ritorno, buongiorno nuovamente a chi si sta collegando adesso, ma sono sicura che eravate già collegati tutti da prima, perché oggi si parlava dell'Epifania, dell'ultima settimana, l'Epifania che tutte le feste porta via, queste feste che per noi sono state molto lunghe, sono iniziate l'8 dicembre se non prima per l'organizzazione di tutto a Cefalù, per cui finalmente con l'Epifania chiudiamo questo capitolo e ci si può rilassare e riposare. E allora noi abbiamo parlato delle origini dell'Epifania, abbiamo parlato di questa vecchina, come è nata la leggenda, come si festeggia in Italia, come si festeggia all'estero. Vorrei parlare invece adesso di quello che sono le manifestazioni, come sempre durante questo Natale che abbiamo chiamato Accendiamo il Natale a Cefalù, un mese di eventi, un mese esatto, o più o meno mancano due giorni, nel senso che sono iniziati l'8 dicembre e finiranno il 6 gennaio, per cui un mese di eventi e un mese di eventi che si concluderanno il 6 con alcuni appuntamenti. E allora io vi volevo ricordare, parlare intanto di questo cartellone, approfittarne per ringraziare tante persone e soprattutto parlare di quello che saranno gli appuntamenti di questa settimana. L'unica cosa che prima, voi sapete che io durante questa trasmissione generalmente parlo delle Madonie, ma in questi mesi, in questo mese di feste, abbiamo lasciato perdere un po' le Madonie perché parlavamo di feste, di origini, eccetera, ma una puntatina sulle Madonie la vorrei fare, cioè solo di un paio di secondi, a Polizzi, alla quale io sono legata perché la mia famiglia vive là, perché io provengo da là, ma perché durante questa Epifania, anche per il periodo natalizio, il Capodanno, loro si sono dati da fare, così come quasi tutti i paesini delle Madonie, ma hanno fatto degli eventi originali, sempre con il famoso senza soldi, proprio perché Polizia è anche commissariata, quindi come qui ha anche molti problemi economici e nessuno, non hanno avuto dei finanziamenti, per cui hanno fatto tutto soli, un po' come abbiamo fatto noi, e a Natale hanno avuto un successone con questo carro trainato da questo asinello che poi è stato travestito da renna. L'associazione infatti Cittadinanza Attiva di Polizzi ha lavorato molto su questo e i Babbi Natale sono andati in giro per la città. Il 6 gennaio la ripeteranno, quindi questo carretto girerà ancora per la città, partirà alle ore 18 dalla scuola media, alle 18:30, e andrà in giro per la città, ma questa volta seguito dalle Befane, una serie di Befane che seguiranno appunto il carro, sfileranno lungo la via della città. Il tutto si concluderà sotto l'albero di Natale, dove ci sarà la premiazione delle tre Befane più originali, più particolari. Quindi lo volevo ricordare perché le Madonie, e non solo Polizzi, sono sempre nel mio cuore. Io spero sempre che questo posto della Sicilia, questo angolo, questo giardino della Sicilia, come lo chiamo io, diventi prima o poi il cuore veramente pulsante del turismo siciliano. Le premesse ci sono, perché quasi tutti i paesi si stanno adoperando proprio per cercare di organizzarsi con degli eventi particolari, e ne parleremo in questi mesi, parleremo con i protagonisti dei vari comuni e sono sicura che ci riusciremo. E noi abbiamo parlato poco fa della Befana, abbiamo accennato ai Re Magi. Perché vi voglio parlare dei Re Magi prima di introdurre Cefalù e gli eventi, e un evento in particolare legato ai Re Magi? Perché i Re Magi hanno anche delle origini al di là di quelle che noi conosciamo, e volevo spiegarvi perché si festeggiano tra il 5 e il 6 gennaio. Nella tradizione cristiana i Re Magi sono magi, cioè la parola mago che si usa per indicare questi personaggi non va identificata con il reale significato che noi diamo alla parola mago. Il vocabolario, infatti, il vocabolo deriva dal greco mago, e sta ad indicare in primo luogo i membri di una casta sacerdotale persiana, in seguito anche babilonese comunque, che si interessava di astronomia e astrologia. Potremmo meglio nominarli studiosi dei fenomeni celesti, come si chiamano oggi. Nell'antica tradizione persiana i magi erano i più fedeli ed intimi discepoli di Zoroastro e custodi della sua dottrina, che secondo il Vangelo di Matteo giunsero da Oriente a Gerusalemme per adorare il bambino Gesù, cioè il re dei giudei che era appena nato. I magi provenienti da Oriente, ovvero dalla Persia, furono quindi le prime figure religiose ad adorare il Cristo, al quale presentarono dei doni che tutti conosciamo. La stella cometa dei Re Magi, che noi identifichiamo in tutti i presepi, invece, ha un'altra origine. La stella veduta, quindi vista dai Magi, secondo l'opinione più probabile, quindi ecco che vediamo i tre Re Magi che Angelo Arduino sta sapientemente inserendo all'interno della nostra trasmissione. Secondo l'opinione quindi più probabile, quindi era questa la stella che i Re Magi videro, era una meteora straordinaria formata appunto da Dio espressamente per dare ai popoli il lieto annunzio della nascita del Salvatore. Molto si è scritto su questa stella, sono state diverse tutte le ipotesi che sono state avanzate, che possono riassumersi in tre parole: c'era una cometa, una stella nuova, una sovrapposizione di satelliti. Non si può neppure pensare ad una stella nuova perché era un bagliore prolungato emesso da altri corpi celesti invisibili, ma si può pensare sicuramente a una bella cometa. Chiaramente da qui la ricerca di questa scia luminosa seguita dai Re Magi per poi arrivare sino al Bambin Gesù, anche perché ricordiamoci, come abbiamo detto poco fa, che la vecchina che avevano incontrato per strada, cioè la nostra Befana, non aveva voluto aiutare i Re Magi. Beh, lasciamo perdere la leggenda e la storia che aleggia sui Re Magi, io volevo invece darvi indicazioni di quelli che sono gli appuntamenti del cartellone di Natale che sta per concludersi a Cefalù. A Rosa Maria dedicheremo l'ultima parte della trasmissione perché ormai è la nostra cuoca, per cui vi darà una ricetta, l'ultima ricetta delle feste. Poi magari ci dedicheremo in primavera ad altre ricette per tutta l'estate, più fresche. Leggere, esatto. Ma ci parlerà anche adesso di un appuntamento. Io intanto prima vi ricordo gli ultimi appuntamenti, sempre non dimenticando che c'è ancora il circuito Presepi in mostra, ideato da me e da Valeria Piazza, in giro per il centro storico di Cefalù, vari presepi negli angoli caratteristici. C'è una parte molto bella che è quella dell'ottagono Santa Caterina, che racchiude circa 40 presepi più o meno tra piccoli e grandi, curata dal gruppo Zefiro. C'è la mostra dei bambinelli molto particolare in corso Ruggero all'Annunziata, curata da Giovanni Biondo e dall'associazione Professione Fede e Cultura della parrocchia di Cefalù. E poi ci sono tutti quelli che ho sistemato in giro per la città, con l'aiuto di Valeria, con l'aiuto di Rosaria Barranco e anche con l'aiuto, che ringrazio ancora, di Francesco Liberto, perché mi ha sistemato alcuni setting di alcuni presepi. E quindi se siete in giro per Cefalù, o vi invito a venire per l'ultimo weekend delle feste a Cefalù, andate per esempio in via Mandralisca, quindi al Museo Mandralisca dall'esterno, c'è un presepe bellissimo, particolare, ecosostenibile, come piace a me, fatto da Maria Ferrera, che è una signora di Polizzi, che ci ha gentilmente prestato questo presepe. E poi ce n'è uno fatto da Piccolo Mondo Antico all'interno del lavatoio medievale, ci sono i presepi di corallo di Arche all'interno di Porta Pescara, c'è un presepe molto bello e particolare, sempre ecosostenibile, fatto dalla scuola elementare all'interno proprio della scuola Spinuzza in corso Ruggero, bellissimo, con materiali ecosostenibili. Ce n'è un altro che rappresenta il mare, fatto da Mariposa all'interno del Circo L'Unione, e ancora quello di San Pasquale, alla chiesa di San Pasquale, che ormai è una caratteristica, un altro alla Calura molto bello, uno a dimensioni umane quindi molto grandi, alla chiesa di San Francesco. E poi tutti quelli che mi sono stati gentilmente stati prestati dall'istituto d'arte, molto particolari. Ce n'è uno in ferro e in stoffa che è all'interno della chiesa del Santa Maria della Catena, ce n'è un altro in ceramica, in terracotta, all'interno di Grimaldi, è una società immobiliare che si trova all'angolo di via Spinuzza. E poi altri all'interno del Purgatorio, della chiesa del Purgatorio, dove troviamo anche quello della Polis Kefaloidion, che ringrazio anche loro per aver fatto questo bel presente. E poi altri nella vetrina dell'ente Parco delle Madonie, sempre fornitoci dall'Istituto d'Arte. Probabilmente ne dimentico qualcuno, ma l'intento era proprio quello di andare in giro per la città a scoprirli. Quindi andate in giro per scoprire questa mostra del primo circuito, la mostra dei presepi. Quindi non dimenticatelo. Ci sono anche quelli all'ex mercato ittico che sono ancora visibili. Sì. fino al 6 gennaio e sono dolci presepi fatti dai pasticceri. Per cui questo è un evento che ancora fino al 6 gennaio potrete visitare, così come il presepe mostrato, come vi dicevo io all'Annunziata, e il presepe narrato, no, illustrato alla Corte delle Stelle. Poi c'è ancora come eventi il 4 gennaio, cioè oggi, un tombolone di beneficenza al Circo L'Unione alle 17.30 a Corso Ruggero a cura della FIDAPA. E sempre oggi, 4 gennaio, e vorrei che chi mi ascoltasse divulgasse la voce a tutti i bimbi che ci stanno ascoltando, ai genitori, considerate che c'è la possibilità oggi di avere una di far partecipare i vostri bimbi alle ore 16 alla una tombolata da favola organizzata dalla GESCI in collaborazione con me e con Benuccio Coco alla palestra della scuola media a partire dalle 16, una tombolata proprio con i personaggi delle favole per i bambini, per i più piccoli. Il 6 gennaio c'è Epifania a quattro zampe, raccolta di alimenti ed accessori per animali a Piazza Garibaldi a cura di Fuori Orario, quindi portate tutti alimenti e accessori per animali che non utilizzate o che vorrete comprare da donare a questi animali abbandonati e quindi in questi rifugi. E poi il 6 gennaio non dimentichiamo la premiazione del concorso Vieni, ho fatto un presepe all'Ottagono Santa Caterina, organizzato dalla Proloco alle 19. E a proposito della Proloco, non dimentichiamo che i laboratori di Babbo Natale, fatti proprio dalla Proloco in Corso Ruggero 79, saranno attivi per i vostri bambini sino al 6 gennaio. E ancora il 6 gennaio la presentazione del libro Grani di Ninni Ferrera alle 17.30 al Circo L'Unione a cura di Mauro Caliò. E poi alcuni concerti, se non li ho persi, aspettate. Alcuni concerti, il 4 gennaio concerto di Natale del maestro Cangelosi a Chiesa del Purgatorio alle 19.30 a cura della banda Maria Pintorno, e il 5 gennaio un altro concerto sempre al Purgatorio alle 18.30 all'Associazione Santa Cecilia. Come vedete non ci facciamo mancare niente, ma proprio niente. E proprio per questo Rosa Maria ci parlerà, prima di mandare di nuovo un brano musicale, poi per darci questa bella ricetta dell'Epifania, ci parla di una di un evento particolare organizzato dall'Officina Culturale Costanza d'Altavilla, che si sono occupate in questo periodo dall'8 di dicembre fino al 6 gennaio di risistemare l'ex mercato ittico con una serie di eventi e mostre. Ci parlerà di quello che succede il 5 gennaio. Sì. E allora, intanto buongiorno a tutti, ancora non l'avevo salutato. Io vorrei ricordare che intanto il 5 pomeriggio, a partire dalle 18, arriveranno a Cefalù i Re Magi. I Re Magi quindi attraverseranno le vie principali della nostra bella cittadina, quindi attraverseranno la via Roma, poi entreranno sul corso e si fermeranno a Piazza Duomo, e porteranno i loro doni al bambinello, al bambin Gesù, dopodiché verranno a ristorarsi al mercatino, perché giustamente dopo un lunghissimo viaggio giusto hanno bisogno di un po' di riposo. Per cui ci saranno questi Re Magi al mercatino a conclusione insomma del loro lungo viaggio, e dobbiamo cercare di farli ristorare. Per cui intanto invito tutta la cittadinanza a venire a portare in dono ai Re Magi un piatto, qualcosa da mangiare, da degustare tutti insieme. Quindi faremo festa insieme ai Re Magi e ci sarà questo momento conviviale, trascorreremo lì la serata insieme a dell'ottima musica, speriamo. Ma anche perché il mercatino si è caratterizzato in queste ultime settimane da eventi gastronomici, che è andata molto bene. Sì, abbiamo coinvolto parecchi commercianti, parecchi operatori del settore, insomma della ristorazione, e anche negozi alimentari e non, che si sono insomma prodigati, sono messi completamente a disposizione con i loro prodotti e con il loro aiuto. Sono proprio venuti fisicamente a darci una mano, insomma, di questo non finiremo mai di ringraziarli, perché hanno contribuito proprio all'ottima riuscita, insomma, di questi eventi che abbiamo assolutamente messo su. Come vi dicevo poco fa, accendiamo il Natale è stata una scommessa in un periodo, come ben sapete, dove non si può spendere nulla perché non ci sono soldi, le amministrazioni in generale non ne hanno, cioè forse ancora di più. È stata una scommessa perché è vero che durante gli altri anni sono stati fatti degli eventi anche a costo zero da altre associazioni, da altre persone o anche da molte persone che ci hanno dato una mano anche quest'anno, ma è pur vero che non c'era mai stata proprio questa unione di associazioni e di cittadini. E questo moltiplicarsi di eventi giornalieri, quindi accendiamo il Natale è stato veramente una scommessa vinta positivamente, questo lo possiamo ben dire ringraziando tante persone. Io ne approfitto perché questa è l'ultima puntata dedicata alle feste, magari ne scordiamo qualcuno, però voglio ringraziare una serie di associazioni e di persone che si sono, e mi scuso già in anteprima se ne dimenticherò qualcuno perché eravate tantissimi, che si sono messi a disposizione e hanno fatto gruppo proprio per fare sì che questo Natale si accendesse, e credo che l'abbiamo acceso benissimo, per cui ringraziamo la Proloco di Cefalù, ringraziamo il gruppo Zefiro, ringraziamo l'associazione Vecchia Soffitta, l'associazione Cefalù Città di Ruggero e Turismo, Professione, Fede, Cultura del Turismo Idea e poi Professione, Fede e Cultura perché è lunghissimo, della Parrocchia Cattedrale di Cefalù, e poi ancora le Officine Culturali Costanza d'Altavilla che si sono occupati di una serie di eventi, dalla Casa di Babbo Natale all'ex mercato ittico, al concerto e ora queste degustazioni gastronomiche, ancora l'Armonia che c'è il 14 dicembre ha fatto questa splendida commedia, e poi ancora l'associazione Fuori Orario, l'associazione Mariposa, il Centro Cultura Polis Kefaloidion, sicuramente dimenticherò adesso qualcuno, e poi per quanto riguarda le associazioni e le bande che si sono messe tutte a disposizione, l'associazione Città di Cefalù e la comunità ambrosiana che ha fatto questo splendido presepe vivente il 26 di dicembre, e poi ancora l'Agorà e la parrocchia Spirito Santo, la FIDAPA, Fuori Orario l'abbiamo nominato, l'associazione Amici della Musica ha avuto un bel calendario di manifestazioni, l'associazione siciliana Musica per l'Uomo che ha fatto anche un bel calendario, e poi ancora l'associazione Santa Cecilia, e poi ancora Angela Macaluso che si è spesa per un mese, e poi ancora per ultimo come persone avrebbe Benuccio Coco, Francesco Liberto che ha fatto questa splendida serata alla quale io ho dato una mano, e visto che oggi era la giornata conclusiva lo ringrazio anche perché mi ha fatto conoscere delle belle persone il 30 dicembre, una serata che è andata molto bene, che ha riportato la moda di artisti locali a Cefalù, molto particolare come serata, speriamo di ripeterla in un'altra occasione. E poi da dietro le quinte CRM come sempre che c'è stato dietro, grazie a Angelo Arduino, ma anche Federico Cammarata con l'amplificazione. Adesso non ricordo tutte le persone, però Angela Giardina in primis che si è messa come commerciante e che mi dice sempre, chiaramente lei è la rappresentante del centro commerciale naturale, quindi come centro commerciale naturale, e tantissima altra gente che noi vogliamo ringraziare veramente per un Natale acceso in maniera eccellente, scusandoci per delle defaianze, ma era il primo anno, la prima... Credo occasione, Rosa Maria. Per me è stata la primissima in assoluto, e quindi è stato bello potersi mettere in gioco, poter offrire le proprie capacità, la propria esperienza. È stato un banco di prova che secondo me abbiamo superato. È riuscito. Infatti le defaianze derivano proprio da questo, proprio dal fatto che probabilmente... Sugli errori si migliora, dove, si impara e si era migliora. La prima volta che tutti insieme lavoravamo ad un progetto. E non è facile. Quindi... scusandoci per questi errori, noi intanto vi salutiamo per un paio di minuti per un pezzo musicale, per poi riprendere l'ultima parte dedicata alla gastronomia, come facciamo sempre, dove Rosa Maria ci darà delle indicazioni su cosa preparare come dolce. Credo che sia un dolce. È un secondo. Perdonatemi. Durante questa epifania, non andate via perché adesso c'è la parte gustosa, quindi seguite la musica, la buona musica di Angelo Arduino per un paio di minuti e ci ritroviamo qui su CRM P Radio. Mi sono dimenticata qui. Solo turismo, da Trieste in giù tra itinerari, eventi e gastronomia. Ed eccoci di rientro per l'ultima parte, la parte gustosa della trasmissione condotta da me, Angela Macaluso, a CRM, la trasmissione che abbiamo chiamato Non solo turismo, tra eventi, manifestazioni, gastronomia e turismo, chiaramente. Oggi abbiamo parlato dell'Epifania, delle feste, delle tradizioni, degli eventi, di quello che si svolgerà a Cefalù in occasione di Accendiamo il Natale, quindi della parte finale, e adesso ci dedichiamo alla gastronomia prima dei saluti finali. E alla gastronomia ci dedichiamo con la nostra Rosa Maria Messina, visto che tra l'altro è stata protagonista all'interno dell'ex mercato ittico in questo Natale dei laboratori di dolci, visto che poi Rosa Maria è stata anche per tanto tempo in alcune occasioni e lo sarà ancora per la mia agenzia durante le mie incursioni cefaludesi con i miei americani, i miei gruppetti di stranieri di lezioni di cucina. della splendida lezione in cucina all'aperto che abbiamo inaugurato a ottobre in occasione dell'Eco Cefalù. Quindi lei ci parlerà di un secondo, mi diceva, in occasione di questo weekend dell'Epifania. Quindi Rosa Maria, vuoi dire a chi ci ascolta che cosa potremmo preparare per l'Epifania? E allora io ho trovato una ricetta, intanto si tratta di un secondo a base di carne, ho trovato questa ricetta che viene dal lontano oriente, quindi non appena l'ho vista, l'ho intanto subito voluta provare, l'ho provata e devo dire che è ottima, ti riporta proprio quei sapori particolari, orientali, comunque buonissimi, per cui intanto ve l'ha detto e poi consiglio a tutti di provarla. Allora, vi detto gli ingredienti? Sì, gli ingredienti e poi come si prepara. Sì. Anche perché Oriente, perché parlavamo appunto sì, di questi Sì, pensando proprio ai Re Magi, sì, ci sta proprio a pennello, direi. E allora, si chiamano, sono dei nocciolini di agnello. Adesso vi vado a spiegare il perché. Intanto vi elenco gli ingredienti. Dunque, ci vogliono 500 grammi di tritato di agnello, carne trita di agnello, un uovo, 4 cipollotti tritati finemente, mezzo cucchiaino di rosmarino, un cucchiaino di cannella, un cucchiaino di curry, 3-4 cucchiaiate di semolino che vanno a sostituire la mollica, la buccia grattugiata di mezzo limone, sale, pepe e un cucchiaio di olio extravergine di oliva. La procedura è molto molto semplice perché basta amalgamare bene insieme tutti gli ingredienti e dopodiché fare riposare questo impasto per una mezz'oretta circa, non di più. Poi andiamo a formare proprio delle palline, delle polpettine molto piccole, proprio nocciolini, devono essere delle, tant'è vero che con questa quantità di ingredienti riusciamo a formare tra 60 e 70 nocciolini. E queste polpettine possono essere cucinate sia possono essere sia fritte, ma proprio vogliono un attimo, perché essendo piccole vogliono un attimo di frittura, e poi possono essere ripassati in padella, coperti con della cipollata in agrodolce, oppure si possono anche cucinare al forno, proprio una decina di minuti al forno, su delle foglioline di alloro, per cui vanno ad acquisire un maggiore aroma, una profumazione ancora più intensa. Io ne ho fatti metà al forno e metà fritti, giusto proprio per vedere insomma come sarebbero venuti ultimati. Devo dire, sono in tutti e due i casi ottimi. E si possono accompagnare con delle verdure grigliate, io li preferisco con dei peperoni e del radicchio grigliato, sì. Diciamo che appunto è una preparazione, è una tipologia di carne che cioè questa preparazione può essere conservata anche per qualche giorno in frigo, si mantengono abbastanza bene. Bene, tra l'altro siamo sotto ora di pranzo perché sono, mi pare, 1:15 se non sbaglio. No, 1:20, per cui viene fame già solo a sentirti, però penso che sia una ricetta molto semplice che chiunque sì, può Sì, molto molto semplice. I bambini si possono pure divertire lì a fare queste palline piccoline, la mamma gli prepara l'impasto e i ragazzini si possono, visto benissimo, che per ora è un periodo ancora di vacanza per qualche giorno, anche i ragazzini si possono cimentare. Benissimo, allora noi con questa ricetta con Rosa Maria, che ringrazio per aver perso un po' del suo tempo assolutamente qui da noi a darci questa ricetta, magari poi la inviteremo anche più avanti per altre ricette. Volevo ringraziarvi intanto perché state sempre in ascolto e che sono sicura che siete sempre tanti e siete ancora qui, e poi volevamo intanto ricordarvi per l'ultima parte gli appuntamenti di stasera e di domani. Quindi stasera, mi raccomando, per i bambini la tombolata, una tombolata da favola alle 16, vi aspettiamo tutti i bambini, mandateceli numerosi, l'importante è che non siano 500 però mandateci numerosi i vostri bambini, perché con le favole si divertiranno alla palestra della scuola media, e quindi vi aspettiamo con Benuccio Coco, con la Jessie, con me. Ma i bambini grandi tardi possono venire? I bambini grandi sì, potrebbero fare qualche personaggio da favola, per esempio, visto che siamo in tema, magari qualcuno potrebbe anche fare Babbo Natale o la Befana o i Folletti eccetera, quindi vi aspettiamo in ogni caso. con tanti premi per questi bimbi. E poi ancora, ricordiamoci domani il passaggio dei Re Magi a partire dalle 18 per le strade principali della città, e con la conclusione finale al ex mercatino del pesce con la cena con l'ammarrata Ryuki, cosiddetta in cefalutano. Che significa? Ammarrata Ryuki, questa buffata finale praticamente, una buffata conclusiva delle feste. Sì. A conclusione, poi chiaramente la presentazione del libro di giorno 6 e oggi e domani anche i concerti alle 18:30 che vi ho detto al Purgatorio. Ancora un grazie a tutte le associazioni, grazie a tutti quanti hanno partecipato a tutti questi eventi, perché sono state tante le persone che hanno partecipato agli eventi a Cefalù, e grazie soprattutto alla amministrazione comunale, alla persona del sindaco che è stato molto disponibile, è stato molto presente in tutte le manifestazioni, che essendo state tante per lui sarà stata anche una fatica doverle rincorrere tutte per essere presente, ma è una delle sue caratteristiche principali, quella la presenza in tutti gli eventi, a dare soddisfazione a chiunque si sia impegnato. Prodigato, e anche per averci dato un po' a tutti tra il teatro comunale, l'ex mercato ittico, la Corte delle Stelle eccetera eccetera, tutti lotta con Santa Caterina, quindi tutti i luoghi necessari affinché questi eventi si potessero svolgere. E quindi grazie, sicuramente questo gruppo allargato di persone che ha lavorato bene insieme si rivedrà ancora lavorare insieme per altre feste. Per fortuna in Italia le feste sono tante. Siamo dei festaioli durante tutti i periodi dell'anno, quindi ci rivedrete insieme per altri nuovi eventi. Per adesso ci riposiamo tutti a partire dal 7 mattino. Noi vi ringraziamo per averci ascoltato e seguito. Ricordatevi che ogni venerdì c'è sempre la mia trasmissione Non Solo Turismo, e che dal prossimo venerdì l'avrei scritto su Facebook, ma ne approfitto intanto per dirvi che vorrei che molte persone, ci metteremo anche una piccola rubrica all'interno della nostra trasmissione, di tutti coloro i quali sono andati in giro per il mondo in vacanza, hanno assistito a qualche evento particolare e ci vogliano raccontare la loro esperienza. Telefonateci, o se siete di Cefalù, chiamate prima, mettetevi in contatto con me o con Angelo Arduino e veniteci a trovare. Sarete ospiti della radio e potremo insieme parlare di questi eventi che magari potremo anche prendere come spunto per Cefalù e dintorni. Intanto buon fine settimana, buona Epifania a tutti, buoni e cattivi. Da Rosaria Messina, Rosa Maria Messina. Scusami, ed no. Angela Macaluso e da Attila, ciao a tutti, buona Epifania, un saluto anche ve lo faccio io al posto suo da Angelo Arduino con CRMP Radio, la radio che si sente e si vede. Baci, ciao. Abbiamo trasmesso Non Solo Turismo, da Trieste in giù tra itinerari, eventi e gastronomia. We'll be right back.